FM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Tonight'll be the sequel. Whoa. Send a pic, let a get a preview. Right now, I'm coming suited up, on my GQ. And I'ma make you take it off, but you keep too nasty. Tonight we skinny dipping, no pool, girl. Set the one between your legs, I'm a fool, girl. Put the skirt on, turn you to my school, girl. Smack you with my ruler, girl. You know how I do it, girl. What time do you get up? I wanna see you tonight. What time will you be? I wanna hold you tonight. Yeah. Just kiss you now. I wanna just touch you now. I wanna just give you all my love tonight. And tell them you won't be here in the morning, oh no. Tell your little friends that you're rolling solo. Tonight, boy, make my body go. Oh, lay it on me. Lay it on me, baby, lay it on me. Oh, lay it on me. Lay it on me, baby, lay it on me. Oh, lay it on me. Watch me lay it down, and I ain't even tired. Putting work in, and I ain't even hired. Hitting high notes, neighbors thought you joined the choir. She drop it, then why would it? Cause she know that I'm liking it. Turn my lap into a chauffeur, and I spend all day just riding it. Trying to clone that, just to have a menage with it. Just a red light special, but I swear ain't no stopping this. Yelling, go, shine, go. So shorty, bring it back. Call my curiosity, cause I killed the cat. And satisfaction brought it back. Girl, it's your world, I'm just chilling on the map. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Sì, è proprio ricominciato il nostro appuntamento del martedì e del giovedì, in questo caso martedì, oggi martedì 24 gennaio, Déjà Vu, Mary Catalano ai microfoni con voi sino a mezzogiorno, il sole che splende, niente vento, niente nuvole, una giornata spettacolare, ideale per uscire. Guai a voi se potete uscire, se potete andare in giro, se vi potete godere la giornata e non lo fate, guai. Vi perdereste proprio un'occasione questa mattina. E beh, poi tutti quelli che obbligati a stare negli uffici, nelle scuole, nei posti di lavoro, pazienza. Comunque ci siamo noi che vi portiamo il sole musicale, il sole che potete segnalarci anche voi, quello appunto dalle onde musicali, che naturalmente sono tutte per voi, se volete richiederci le vostre canzoni. Allora, come fare? Vi dico subito i numerini che sicuramente molti di voi conosceranno abbastanza bene: il 3355637251, il numero per gli sms, poi c'è lo 0921923292, il numero fisso. E poi non dimenticate che potete fare le vostre segnalazioni musicali anche tramite il nostro sito internet, ovvero www.crmepiradio.it. da lì ci seguite in streaming, seguite le repliche, i podcast di tutti gli appuntamenti, di tutti i programmi di CRM Happy Radio, se volete, anche il mio. E poi, fra tutte le altre notizie, c'è anche appunto la mascherina dedicata alle vostre richieste musicali. Va bene? Detto questo, vi ricordo anche il nostro profilo internet di Facebook. Non dimenticate che potete interagire con noi anche tramite Facebook. E che dire? Cos'altro dire? Ho dimenticato qualcosa? Beh, se fosse così, lo riportiamo più tardi, quello che ci manca all'appello, ok? Intanto non manca all'appello stamattina il nuovo degli Autumn, Disco Tristo. Ancora buongiorno. Siamo la chimica e la comica dei nostri giorni. Pensiamo al netto delle fregature prese nei dintorni. Barattiamo gli ideali aspettando di volare, ma con quello che ci capita è per questo che fa male. Io perché dovrei fidarmi se non ti fidi di me? Ecco che torna subito lo stronzo con i suoi cliché. E non puoi sentirti solo nel pensare sempre male, e sopravvivi col riflesso di un istinto elementare. Dovremmo smettere di sperare e di credere nella gente, ed aspettarci che prima o poi riesca a vedere quello che è evidente. Per accettare la disillusione dovremmo la prerogativa ed approcciare questa vita finalmente da dove vado nuovo. Siamo la voglia di viverci a tutti i costi, passiamo sopra tutto quanto ed includiamoci parenti. Siamo dotati di egoismo da poterlo esportare, troveremo sempre un modo per non renderlo banale. Se tu poi non mi telefoni io non ti chiamerò, me ne bevo un altro paio così non ti sentirò. E con la scusa che sto male posso rimanere solo, conoscere gli errori e farli uguali il giorno dopo. Dovremmo ammettere lo sbaglio di aspettarci un cambiamento, riporre i sogni in futuro che da tempo ormai non ci somiglia più. E non fermarci in superficie per le nostre valutazioni, avere un metro di giudizio isolato dai nostri umori. Vedere quello che succede in giro è surreale. Tu prova a raccontarla ad un alieno, io che credevo di trovarmi nella giusta direzione. Racchiudo tutte le patologie di una generazione. Dovremmo smettere di sperare e di credere nella gente, ed aspettarci che prima o poi riesca a vedere quello che è evidente. Per accettare la disillusione nuova prerogativa ed approcciare questa vita finalmente come un uomo nuovo. Dovremmo ammettere lo sbaglio di aspettarci un cambiamento, riporre i sogni in futuro che da tempo ormai non ci somiglia più. Fermarci in superficie per le nostre valutazioni, avere un metro di giudizio isolato dai nostri umori. Vi raccomando, se avete intenzione di uscire, prendete la lettera, quello che ho detto prima, portatevi le radioline da presso, o comunque sul cellulare se avete la radio incorporata al cell. Beh, benissimo, le cuffiette, siete a posto, seguite comunque dovunque vi mettete in testa di andare l'appuntamento con me, non perdetevelo fino a mezzogiorno insieme a me. Dunque, piccola pausa, poi ritorniamo, ancora bellissima musica, c'è una lista piena, ricca questa mattina, e voi potete incrementare questa ricchezza mandando i vostri messaggini. 3355637251 a vostra disposizione per i vostri brani. PRN Happy Radio. CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu, insieme a Mary Catalano con voi fino a mezzogiorno, la musica dei Florence The Machine con No Lights, No Lights. Ancora ben trovati a tutti voi che vi siete messi in sintonia soltanto da qualche minuto. E volevo raccontarvi di una cosa importantissima che accadrà molto presto. Presto ci saranno, come sapete già, le Olimpiadi del 2012 e Londra sta già cercando di organizzare al meglio questo grande evento. Il Daily Mail afferma che per 12 giorni sarà possibile assistere ai concerti delle leggende della musica internazionale presso Hyde Park e Victoria Park. Ad organizzare gli eventi sarà l'affidabilissima Live Nation, che metterà così a disposizione 1 milione di biglietti. E per conoscere i nomi delle stars ne abbiamo qualcuno già, si vocifera di Paul McCartney, Rolling Stones, Led Zeppelin, grandi nomi, Stevie Wonder, Pink Floyd, storici anche, e poi Take That, Simon e Godful Kill, insomma tanti davvero, e nomi importantissimi che porteranno sicuramente più appeal alla manifestazione, dunque alle Olimpiadi 2012. Ma il colpaccio sarebbe messo a segno se on stage salissero anche le Spice Girls, la cui presenza sembra quasi certa, e anche Madonna, la regina del pop, che a breve tornerà col suo nuovo album di inediti. e per il momento nulla comunque di confermato di tutto quello che abbiamo detto, però presto sapremo gli aggiornamenti a riguardo e avremo più notizie più dettagliate e più sicure. Però già vociferando, diciamo che quasi verità questa, solo da confermare. Intanto noi continuiamo a confermare la musica che ci segnalate anche voi al 335-56-37251 in questo caso, e arriva per l'ennesima volta all'interno di questo appuntamento richiestissima la voce e la musica di Giorgia insieme a De Rossi Ramazzotti. Inevitabile. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica fisica, attrazione, mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni. Non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, serve, è questione sai di tempo, ci sorprende prima o poi. Risposta è tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Tanta musica bolle nella pentola questa mattina all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano su CRM Happy Radio. Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto dovunque voi siate in capo al mondo, grazie a internet ci ascoltate anche tramite il nostro sito www.crmhappyradio, dove ci seguite anche in streaming. E fra le tante belle canzoni ci sono da segnalare un sacco di novità, e alcune di queste novità comprendono anche la musica nuova di Tiziano Ferro in arrivo dall'Italia, ma anche dall'America arrivano un sacco di novità. Intanto

già le 10.42, siete sempre su CRM all'interno di Deja Vu. Vi ricordo l'appuntamento va in replica la notte a partire dalle 2, sempre su CRM, quindi nottamboli all'ascolto. Ancora un buon ascolto anche a voi, buonanotte in questo caso, no? Relax, Don't Do It, questo era un grande singolo dei Frankie Goes to Hollywood. Grazie a Michele che ce l'ha segnalato al 3355637251, abbiamo potuto riascoltare questa grande chicca della musica internazionale del passato. E vi ricordo che potete interagire con noi negli svariati modi, anche su internet con il nostro sito, il www.crmhappyradio.it, dove ci seguite in streaming, dove seguite anche gli appuntamenti in podcast, in replica, dunque tutti gli appuntamenti quando volete, come volete, se vi pare e piace, ok? E poi a proposito di internet, non dimenticate che potete interagire anche con la nostra pagina, il nostro profilo Facebook, e se non siamo fra i vostri contatti cercateci CRM Radio, ci trovate subito e diventiamo amici anche là, che ne dite? E a proposito di Facebook, per tutti coloro che hanno una vera fissazione con questo social network, ecco un'idea davvero straordinaria. Un designer di origine croata infatti ha pensato bene di creare un vero e proprio prototipo di letto Facebook, proprio così, formato dalle tipiche curve a forma di lettera, la lettera F, e dall'inconfondibile colore blu. Contiene anche un apposito spazio per poter piazzare tranquillamente il proprio laptop e navigare prima di gettarsi fra le braccia di Morfeo. E allora se siete proprio così fissati con Facebook, potete andare su internet a cercare proprio questo letto a forma di Facebook, a forma di lettera F, tutto blu, con la scritta laterale Facebook. C'è la foto, potete anche andare a vedere se volete direttamente adesso. Intanto arriva la prossima canzone, un'altra chicca di questo periodo, però sì, perché i Coldplay sfornano singoli a più non posso, e uno più bello dell'altro, e questo è l'ultimo, si chiama Charlie Brown, Coldplay a CRM. Scarecrow dreams. When Ma che bomba di singolo, l'ultimo per i Coldplay, che si chiama Charlie Brown, intanto unica data italiana per i Coldplay in concerto in Italia, e la città scelta è stata proprio Torino, allo Stadio Olimpico. Il tour inizierà da aprile ad agosto e durerà tutta l'estate, e tra tappe in America, Canada e Europa c'è anche appunto questa unica data in Italia proprio a Torino, ed è stata scelta proprio quella del 24 maggio, quindi il 24 maggio 2012 tutti a Torino, e finora, a meno di aggiunte ultime, insomma, dovrebbe essere proprio l'unica data scelta per il nostro paese. La scaletta prevede alcuni classici intramontabili dei Coldplay e soprattutto i recenti brani tratti dal loro ultimo album, che si chiama Milo Xilitolo, Milo Xilotto, ecco, ogni volta sbaglio a pronunciare questo titolo di questo album. Insomma, un buon successo di vendita in tutto il mondo per i Coldplay, che veramente sfornano canzoni bellissime che piacciono un po' a tutti quanti, e questa è la cosa che conta di più. E c'è anche da dire che sembra che sia stato confermato il duetto del tutto speciale che li vede protagonisti insieme a Rihanna. Dunque i Coldplay insieme ad Rihanna, appunto, ci sarà per la prima volta la possibilità di proporre on stage insieme a Rihanna il quarto singolo estratto dall'ultimo disco cantato in collaborazione proprio con lei, per cui c'è anche questa cosa, questa chicca da andare a sentire. Nel frattempo, parlando di chicche, c'è il nuovo di Laura Pausini, già super richiesto al 3355637251, da Margherita, che salutiamo naturalmente, ringraziamo. Bastava il singolo di Laura. Di ritorno per rispondere a un sorriso, bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende e lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto? Camminata in centro in un pomeriggio bianco, bastava prevedere il tuo fastidio, fare i conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Come ci siamo ridotti io e te. Anche se è poco quello che capisci dopo, bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere. Bastava, bastava, bastava, ehi, saluto a Margherita che ci ha segnalato il nuovo singolo per Laura Pausini che si chiama Bastava e che è uscito già il 20 gennaio scorso ed è il terzo singolo estratto da Inedito, appunto per quanto riguarda Laura Pausini. E il singolo Bastava è originariamente stato cantato e presentato al Festival di Sanremo nella sezione giovani da Eleonora Cupri. Laura è rimasta affascinata dalla canzone e ha deciso non solo di inserirla all'interno dell'album ma anche di farla diventare un singolo ufficiale. La stessa Laura Pausini commenta così la canzone e dice: è una canzone molto personale, anche se non è nata da me. Insieme a Niccolò abbiamo cambiato alcune parti del testo già esistente per renderla ancora più mia. Il brano nasce per essere presentato al Festival di Sanremo da una giovane bravissima artista, ma già nelle prime selezioni fu bocciato questo brano. Amo questa canzone, continua Laura Pausini e dice che prova un'emozione fortissima nell'essere lei l'interprete ora, perché quella che canto è davvero la mia storia, lei dice. Benissimo, quindi tutto il singolo, se non l'avete sentito bene oggi, lo potrete riascoltare più in là sicuramente, visto che anche il nuovo singolo e ci sarà la possibilità senza dubbio, e poi richiedendolo anche qui a CRM sarà più facile tutto questo. Intanto adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo, c'è ancora un sacco di bella musica da ascoltare, abbiamo ancora un sacco di tempo, quindi tranquilli tranquilli, fra poco CRM Happy Radio. Everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa, look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. See you're not satisfied, and I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend. Yeah. You told me that they can understand the man I am. So I see the truth in your lies. I see nobody by your side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. All again, through my rise and fall, you've been my only friend. My only friend. You told me that they can understand the man I am. They so can't understand. Here, talking to each other again. Looking at me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. Through my rise and fall, you've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? BP, looks like I did take them to Mars this time. Lil Wayne insieme a Bruno Mars, un bel singolo, devo dire, molto suggestivo anche in qualche maniera, musicalmente parlando. Mirror, il singolo che abbiamo sentito, adesso pausa e poi ritorniamo, ancora musica. Happy Radio. Non so voi, ma la voce di Dolores O'Riordan la troverei accattivante, molto sessuale, anche se leggesse l'elenco telefonico. Dolores O'Riordan, leader indiscussa dei Cranberries, che ritornano alla grande con questo nuovo singolo che si chiama Tomorrow. Il nuovo singolo è estratto dall'album Roses, nuovo nei negozi già dai primi di gennaio, e da un po' di tempo che sentiamo questo singolo Tomorrow, un brano che non punta a seguire la moda musicale del momento, ma che rimane fedele allo stile che da sempre caratterizza i Cranberries, diventati noti negli anni grazie anche a queste caratteristiche sonore. La band esce con questo album che spera di riconquistare fan storici, compresa me, e di conquistarne magari anche di nuovi, naturalmente. Ci riusciranno? Beh, secondo quello che già succede, secondo quanto viene richiesto qui a CRM per quanto riguarda il loro singolo, beh, penso proprio che ci riusciranno, come sempre. Poi sono davvero molto particolari, una band molto particolare, molto bella, una band a tutti gli effetti. Ok, bene, devo dire che è arrivato il momento di ricordare ancora una volta che ci sono a vostra disposizione i numerini per i vostri messaggi: 335-56-37251 il numero per gli sms e lo 0921-92-3292 il numero fisso, e poi Facebook e poi www.crmepiradio.it dove ci potrete ascoltare in streaming dovunque voi siate, sempre, comunque, quando volete e se volete, e anche fuori orario, nel senso che ci sono i podcast, ovvero le repliche dei vari programmi, compreso quello di Déjà Vu, che va in onda la notte. Anzi, a tutti i nottambuli all'ascolto, in questo momento buonanotte a tutti voi. Siete su CRM Happy Radio, questa che vi parla è la voce di Mary Catalano, che adesso vi rimanda alla prossima canzone. Sono qua, arrivate in massa e buttate giù il portone e mi imbavagliate perché non ne potete più, magari. E va bene, allora diamo spazio alla musica e arriva Ora e Allora. Anche questo è un singolo super richiesto da voi. Luciano Ligabue a CRM Happy Radio. Un conto è volere vedere le stelle, un conto è farsi guidare, un conto è saperle in alto e lasciarle un po' fare. Un conto è la rabbia che provi a 20 anni, un conto la rabbia a 40, un conto che intanto non sembra cambiare mai niente. Sai che ora e allora e ancora così, a rubare l'amore che si fa rubare. Un conto è la mappa di tutti i locali, un conto è dovere star fuori, e sentire che riesci a lasciarti dormire. Un conto è svegliarti e sentirti già stanco, un conto è trovarla di fianco, un conto è sentire che il fuoco non è ancora spento. Tanto sta il suo gioco, un conto è averlo capito, un conto è ripeterti spesso che sei fortunato. Tanto sarà su una fune Luciano Ligabue, super richiesto qui a CRM Radio con Ora e Allora, e fra poco si parlerà anche di cinema, quindi non andate via, pausa e poi torniamo. CRM Happy Radio. Ad ascoltare certe piccole voci che a volte vanno al cuore. In questi momenti, con l'aria che si muove, io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore da poterne parlare. La voce di una canzone per lasciarsi andare. Amore su quel treno che è già un ritorno. Amore senza rimpianto e senza confronto. E conosci la tua vita ma non hai visto il mare. Non hai l'amore per poterne parlare, ma è una notte di maggio che ci si può aspettare di più. Se questa è una canzone con cui davvero si può parlare di questa sera ferita da non lasciarsi andare, in questa notte da soli che non ci si può vedere e non ci si può contare, ma solo ricordare. Io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore. Ma che bella canzone, ragazzi, ma che vociona quella di Fiorella Mannoia. Grazie a Paola abbiamo ascoltato le notti di maggio, un gran successone per Fiorella Mannoia, la rossa nostrana che torna ed esce proprio oggi il nuovo album per lei che si chiama Sud, un album di inediti. E poi il 31 marzo live al Forum. E lei ha detto: ho maturato l'idea di registrare l'album Sud dopo aver letto il libro Terroni di Pino Aprile. È stato scioccante constatare che i libri di scuola non ci raccontano la verità sui fatti reali riguardo all'Unità d'Italia. E lei continua a dire: sentivo l'esigenza personale di restituire al Sud un po' della dignità che le era stata tolta. Poi il mio sguardo si è allargato al sud del mondo che condivide la stessa sorte. Depredato, saccheggiato, tenuto lontano dal progresso e abbandonato a se stesso. Questo dunque vuole essere un omaggio al Sud, raccontando i contenuti del nuovo album Sud da oggi nei negozi. Fiorella Mannoia è un torrente di parole, in questo caso una piena di emozioni che travolge l'intera classe politica italiana, e dunque non ci rimane che magari comprare anche questo nuovo lavoro per Fiorella Mannoia. Sicuramente non saranno soldi spesi male, perché lei, come sapete, è una grande artista, una grande cantatrice, diciamo importantissima qui in Italia, lo sappiamo. E dunque il nuovo album Sud presto fra le mani. Ok, intanto andiamo ad ascoltare la prossima canzone e ritorniamo alla musica di adesso, di questo periodo. I Professor Green con Emily Sunday e Read All About It su CRM Radio all'interno di Déjà Vu, insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Continuate a mandare le vostre richieste al 335-56-37251 e anche tramite il nostro sito, ok? Expectations forget rip. Ain't never been shit when I wanted to get pens. Hustle to be, I'm exactly what my next is. Like, said I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, then I said nothing at all. After all, you were never kin to me. Family is something that you've never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did for me. Was I never saw enough for you. The last thing I said to you was I hated you. I loved you and now it's too late to say to you. Just didn't know what to do, I had to deal with it. Even now deep down I'm still living. To think I used to blame me, I wonder what I did to you to make you hate me. I wasn't even fine, life's a journey. Your mind wasn't an easy ride, you never even got to see me ride. I just wish you would've reached out. I wish you would've been round when I've been down. I wish that you could see me now, wherever you are. I really hope you found peace. But know that if I ever have kids unlike you, I'll never let them be without me. I wanna sing. My job's more like public service. My life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a lot different. At times I throw fits when I read how they work it. You see me smile, now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is alright when it ain't really isn't working. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream. La voce di Emily Sunday insieme ai Professor Green con Read All About It, il singolo che abbiamo sentito, anche questo all'interno di Déjà Vu, che vi accompagnerà sino a mezzogiorno con la voce di Mary Catalana ai microfoni. Bene, bene, bene, parliamo di cinema, parliamo di un bello del cinema. Io da piccola impazzivo per lui, però ho scoperto tardi che è proprio un tappettino, proprio piccolo, piccolino ma bellino, una bomboniera, Tom Cruise. Lui, nonostante gli anni passano, continua comunque a essere sempre un leader del cinema. cinema, uno dei più grandi e uno dei più pagati attori internazionali, Tom Cruise sbarca ancora nel mondo del cinema, in Italia soprattutto. Il 27 gennaio torna con Mission Impossible Protocollo Fantasma. Cruise in questo caso le prese con una missione nucleare, dunque ritorna alla quarta serie, la quarta puntata, insomma il quarto episodio di Mission Impossible Protocollo Fantasma, quarto capitolo di queste avventure per la super spia, che si chiama nel film Ethan Hunt, che con i precedenti tre film ha incassato nel mondo quasi 2 miliardi di dollari. Ad interpretare l'agente c'è anche ancora Tom Cruise. Hunt è isolato, senza risorse e in fuga, dopo che il suo gruppo viene accusato di un attentato al Cremlino. Toccherà però a Ethan cercare di svelare di sventare soprattutto una terribile minaccia nucleare. Per il film, che ha ricevuto le migliori recensioni di tutta la serie, Cruise ha voluto come regista Brad Pitt, pensate, autore di capolavori d'animazione come Gli Incredibili e Ratatouille. Brad Pitt sa bene come generare tensione e suspense nelle sue storie, ha spiegato nelle interviste Tom Cruise. Secondo l'attore è sempre importante lavorare con i talenti migliori, direi. In un film non mi concentro su di me, ma sulla storia migliore da realizzare. Se non c'è quella, non serve tutto il resto cade, per cui sceglie solamente il meglio. E a noi la scelta invece di andare a vedere appunto questo sequel di Mission Impossible, ancora una volta protagonista proprio lui, Tom Cruise. E invece protagonista musicalmente parlando qui su CRMP Radio adesso sarà Antonello Venditti. Questa canzone è un po' triste, devo dire, nel suo contesto, ma molto molto bella, eh? Si chiama Con che cuore, Antonello Venditti, grazie ad Elena che ce l'ha segnalato. Nel chiarore del mattino sono un fiore dentro un muro. Dove sei? Questa casa mi taglia il cuore, anche il sole non scalda più. Dove sei? Dove sei? Con che forza mi salverò? Quale inganno mai mi farò bastare? Dove andrò? In quale abbraccio mi perderò? Per pagare poi tutta la mia colpa di amare chi non ho, non so guarire, non so morire senza te. Con che cuore mi lasci qui? Questo mondo ormai corre di a quale fede mi stringerò, se non resta più niente in questa vita, e che rimorsi avrò. Non so guarire e non so morire senza te. Si allunga l'ombra delle cose, è tardi ormai, tu dove sei? Tu dove sei? Tu dove sei? E con che cuore mi lasci qui? Questo mondo ormai corre, io non ho velocità. A quale fede mi abbraccerò se non resta più niente in questo mondo? E che rimorsi avrò? Non so guarire e non so morire senza te. Ci sentiamo fra poco, sempre Déjà Vu, sempre Americane Happy Radio. che bella canzone, quanti ricordi legati a questa canzone per quanto mi riguarda, da lì si denota quanto sono invecchiata. Whitney Houston, che invece lei sembra sì invecchiare, ma relativamente comunque è sempre in grande forma, sembra, tutto pronto per il grande ritorno proprio di Whitney Houston al cinema. Dopo 16 anni, pensate un po', sbarca nelle sale americane il 10 agosto prossimo il remake del film del 1976, Sparkly. In rete circola la prima di questa cosa, immagine praticamente interessante, che è proprio l'immagine promozionale che vede la cantante in gran forma al fianco della co-protagonista Jordyn Sparks, vincitrice di American Idol nel 2007. Lei dice: ho sempre cantato le canzoni di Whitney Houston e ora lei e fa mia madre sul set ed è un sogno che si avvera. Queste sono le parole di Jordyn Sparks. La pellicola è ispirata alla vera storia delle Supremes, dalla difficile ascesa del gruppo, il gruppo vocale femminile di Harlem, fino al successo. Durante le riprese di questo film mi sono divertito un sacco, racconta Whitney Houston. C'erano parrucche e dei costumi davvero bizzarri, pazzeschi. Sparkly è ambientato nel 1963, quindi abbiamo avuto a disposizione un armadio enorme di abiti, trucco e parrucco di ogni tipo, e non facevo altro che provare vestiti. Queste sono le parole di Whitney Houston. Intanto Jordyn invece è emozionatissima, dice che stare al fianco di Whitney Houston è stato veramente un sogno che si è realizzato. L'ultimo film di Whitney Houston risale al 1996 con Uno sguardo dal cielo e The Preacher's Wife, e adesso dopo 16 anni ritorna Whitney Houston al cinema, la vedremo con piacere, no? Intanto andiamo ad ascoltare la prossima canzone, un'altra segnalazione da parte vostra, e questa volta, e in questo caso da parte di Girolamo, che ci segnala una perla musicale, che è quella degli U2, che ospitiamo sempre, molto spesso, non sempre, quasi sempre, all'interno degli appuntamenti insieme a me. In questo caso, grazie a Girolamo, sentiamo Miss Sarajevo, una bellissima canzone degli U2. Mancano 20 minuti a mezzogiorno, Un saluto anche ai nottamboli che ci ascoltano in replica la notte a partire dalle 2, sempre su CRM Happy Radio. Ancora un buon ascolto a tutti voi. tables and the night is set to freeze. Una perla veramente, grazie a Girolamo che ce l'ha segnalata, gli due con Miss Sarajevo insieme al grande Pavarotti, naturalmente come vocalist d'eccezione all'interno di questo singolo. E se vi dico che le riunioni di lavoro incrementano la stupidità, cosa mi dite? Ci credete? Beh, è un'affermazione molto particolare e insolita, ma pare proprio che le riunioni di lavoro ripetute ogni giorno possono far aumentare considerevolmente la stupidità di chi vi partecipa, abbassando il quoziente intellettivo dei componenti, soprattutto se si tratta di donne. Pensate un po', non è che lo dico io, lo dicono gli studiosi americani che fanno sempre delle ricerche un po' particolari, e in questo caso i ricercatori del Virginia Tech Carillion Research Institute hanno misurato il quoziente intellettivo di un gruppo di universitari e hanno usato la risonanza magnetica funzionale per studiare come il loro cervello elaborava le informazioni, ed è venuto fuori questo, che troppe riunioni continuamente, eccessivamente, insomma, poi va a finire che incrementano la stupidità fra i dipendenti. Allora cerchiamo di fare meno riunioni, più produttive però, più lunghe magari, però inferiori di numero, e però che siano ricche di contenuto importante e interessante, che allarga gli orizzonti e che magari in cambio di aumentare la stupidità invece faccia crescere la creatività, che è meglio, no? Ok, intanto andiamo avanti con questi risultati che vengono fuori da sondaggi, ricerche, cose varie. Certe volte non si sa se crederci o meno, però se li fanno questi studi vuol dire che un qualcosa di vero ci deve pure essere, no? E noi ve lo raccontiamo. Intanto vi raccontiamo anche la musica nuova, quella dei Litfiba, che sono ritornati finalmente di nuovo insieme, Ghigo Renzulli insieme a Piero Pelù, e il singolo nuovo di questo periodo che li riguarda si chiama La mia valigia, Litfiba. La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zip, sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. Casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note e parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Sui vetri del mare, nascosti nel caos, dentro di me, viaggiare e sognare è un atto d'amore. Oh, Negli ultimi periodi abbiamo ascoltato spesso il primo singolo di lancio del nuovo lavoro discografico per i Litfiba, ovvero Lo Squalo, invece adesso il nuovo singolo per loro, La Mia Valigia. E nel momento in cui si avvicina all'ascolto di un album di Litfiba, credo che debba rimanere bene in mente un concetto, che dopo quasi 30 anni di onorata carriera in pochi cercano o chiedono al duo fiorentino un qualcosa di innovativo o di ricercato. Album come Desaparecido e 17 Re hanno già dimostrato ampiamente il valore innovativo della band sul finire degli anni 80, piuttosto invece per loro si ricercano elementi che contraddistinguano il gruppo dai tempi del Diablo e che poche altre rock band italiane possiedono, ovvero concretezza, solidità e quella chiarezza nei testi che ben rimane impressa all'ascoltatore. E il brano che abbiamo sentito, La Mia Valigia, a mio avviso forse la canzone di maggiore impatto presente nell'album, che si chiama Grande Nazione. La trama si snoda sul tema del rocker sempre in movimento, con la valigia sempre pronta, riuscendo appieno a far risaltare quella sensazione malinconica che si respira ogni qualvolta si affronta un viaggio. Dunque Litfiba sono ritornati alla stragrande insieme, forever speriamo, e noi adesso insieme ancora un po', almeno per quest'oggi, fino a mezzogiorno, all'interno di Deja Vu. Subito dopo la pubblicità però, perché poi ritorniamo, ma ritorniamo alla grande, con un grande successo e una grande voce tutta CRM Happy Radio. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed every man could be free, so her mama got high. She belongs. questa mattina chiudiamo l'appuntamento davvero in bellezza con questo grande successo di Sheryl Crow, Run Baby Run. Si chiude così dunque l'appuntamento con Déjà Vu insieme a Mary Catalano con voi, e si ripropone il tutto naturalmente a giovedì prossimo, sempre dalle 10 circa sino a mezzogiorno su CRM Happy Radio. Non mancate, non perdetevi gli appuntamenti che seguiranno, non perdetevi gli appuntamenti pomeridiani insieme, in questo caso oggi è martedì, sì, ci sarà Rosy, e poi gli appuntamenti con Roby D'Antoni.